Sospensione di ricreativo, principia avviare il culturale. Seduti per Dio! Grigliottosa, la nuova rubrica di approfondimento di Radio Contado. Ed eccoci giunte alla 12ª puntata della nostra nuova bellissima rubrica di approfondimento, ma oggi abbiamo il piacere di rimandare la prima parte di un'intervista che è stata pubblicata sulla Nave dei Folli e si parlerà della pubblicazione di un opuscolo che si chiama Il Sahara Lento dell'Ambiente Svenduto, quindi si parlerà degli ulivi del Salento, di Xylella, ma non solo, con uno sguardo un po' particolare e controtendenza, ma non vi dico altro perché all'inizio dell'intervista c'è subito un'introduzione, quindi grazie alla Nave dei Folli e buon ascolto. Trasmettiamo la prima parte di una lunga intervista che ho raccolto in Puglia, nella zona che sta al confine tra le province di Taranto, Brindisi e Lecce, con Teodoro Summa, che fa parte del Comitato Cittadino Antinucleare di Maruggio, formatosi negli anni Ottanta per opporsi al progetto di costruzione di una centrale nucleare qua in zona e che fa anche parte del coordinamento interprovinciale a tutela dei territori. Si parlerà della pubblicazione, avvenuta circa un anno fa, dell'opuscolo Il Sahara Lento, ovvero dell'ambiente svenduto, che a partire dal problema del disseccamento degli ulivi e della susseguente dichiarazione di stato di emergenza dopo aver individuato come responsabile unico il batterio Xylella, veicolato dall'animaletto comunemente chiamato sputacchina qua in zona, approfondisce tanto il contesto locale e regionale e non solo, che ha dato origine molto probabilmente alla moria di ulivi secolari, di cui appunto si propone una lettura del tutto opposta a quella dominante. Buon ascolto e buon viaggio assieme alla carovana della Nave dei Folli nei deserti del Sahara Lento. Agricoltura in allarme. Focolai di Xylella. Batterio killer degli ulivi. Commissario straordinario nazionale per la gestione dell'emergenza chemi poteri. Espianto immediato delle piante infette. Punto di riferimento dell'olio extravergine di oliva non solo in Italia ma in tutto il bacino del Mediterraneo in Europa. Oltre 100 tra convegni, masterclass e degustazioni. Ma serve agire subito per fermare l'avanzata del batterio. Scoperta di un nuovo focolaio. Altri 100 ulivi infetti. Intervento drastico. Il focolaio più esteso al di fuori del Salento. Stessa tipologia del batterio sotto specie pauca, la più grave riscontrata finora. Potrebbe essere utile e opportuno fare qualche sacrificio, qualche intervento drastico proprio per preservare il territorio. Batterio killer degli ulivi. Intervento drastico. Agricoltura in allarme. Batterio killer degli ulivi. Commissario straordinario nazionale per la gestione dell'emergenza. Scoperta di un nuovo focolaio. Agricoltura in allarme nel Barese. Confagricoltura Puglia guarda con timore alla tempistica con la quale si sta affrontando il propagarsi della xylella. Sono stati rilevati focolai di xylella che interessano mandorleti, vigneti, oliveti e colture di ciliegio. Killer degli ulivi, focolai di xylella, intervento drastico, agricoltura in allarme, commissario straordinario nazionale per la gestione dell'emergenza, battello killer degli ulivi, scoperto di nuovo focolaio. Nel 2018 l'Italia fu deferita per non aver adottato le misure obbligatorie contro il diffondersi della xylella fastidiosa. In altre parole, non si intervenne con tempestività. Anche oggi Confagricoltura Puglia rileva ritardi. Notiamo che un provvedimento che ha interessato un vigneto è stato adottato dall'osservatorio il 12 dicembre 2024. Bene, quel provvedimento, secondo le normative vigenti, doveva essere eseguito dall'ARIF entro il 10 gennaio, non oltre il 10 gennaio, anche prima. E gli operatori dell'ARIF si sono presentati in quel vigneto per eseguire l'espianto soltanto pochi giorni fa, a luglio del 2025. Nessuna preclusione a un commissario straordinario nazionale per la gestione dell'emergenza xylella. L'assessore regionale all'agricoltura Paolicelli lo ribadisce nel corso della presentazione della seconda edizione di Evolio. Io non sono assolutamente contrario. Se al commissario viene dato pieni poteri, procedure più snelle e soprattutto risorse. Se questo viene fatto, io sarò al fianco di chi porterà avanti un piano di rigenerazione, soprattutto nel territorio colpito da xylella. Per la gestione dell'emergenza battello killer degli ulivi, scoperta di un nuovo focolaio. Allora, io sono Teo del coordinamento interprovinciale a tutela dei territori e abbiamo, come collettivo, abbiamo fatto come dire, tutta una serie di iniziative, tra cui anche un libro, un libretto, insomma. E questo progetto nasce praticamente nell'estate del 2024, proprio a Urupia, nel contesto del Festival delle Terre, fatto ad agosto 2024, dove anche per reciproci intenti si era deciso appunto all'interno dei 3 giorni di fare praticamente una giornata dedicata a quello che era il massacro del territorio dovuto appunto agli espianti dei millenari alberi di ulivo e non solo, perché all'interno c'era anche la tematica praticamente degli espianti dei secolari alberi di querce che dovevano avvenire, meno male che non sono avvenuti, all'interno della ex pista Fiat di Nardò, che è stata acquistata dalla Porsche, e questa, per allargare la pista, voleva abbattere praticamente forse tra gli ultimi esemplari salentini di querce secolare. Per fortuna tutto non è andato in porto, meno male. E quindi all'interno di questi 3 giorni, appunto, si una partecipazione veramente enorme quella volta, si è tenuta appunto un'assemblea, una riunione sulla tematica, e da lì, su proposta chiaramente nostra, è nato appunto questo coordinamento interprovinciale. Chiaramente il nome poi è sorto successivamente, ma l'intento era quello di far nascere praticamente una struttura che riuscisse a fare dei collegamenti molto ampi da un punto di vista territoriale, perché poi, come sarà chiaro successivamente, se parliamo di disseccamento degli ulivi, questo è inizialmente nato nella parte bassa del Salento, quindi verso l'Euca, tanto per intenderci, verso Gallipoli, e poi si è spostato durante gli anni attraverso praticamente i vari territori salentini, andando sempre verso nord. E quindi sin dall'inizio si sono avuti sempre territori direttamente interessati, alcuni con degli stadi di disseccamento molto più avanzati, altri meno avanzati. Di fatto, comunque, tutti questi territori sin da subito hanno generato un antagonismo molto forte, però a mano che i territori venivano ad essere interessati, chiaramente lo spontaneismo andava un po' a decrescere in un territorio e quindi svilupparsi in un altro, no? E quindi, siccome parliamo di un territorio molto grande, perché la Puglia poi tra l'altro è molto lunga come regione, di fatto tutti i vari comitati, collettivi, associazioni si trovavano poi ad operare per quanto riguardava il proprio territorio, magari senza conoscere ciò che stava accadendo, no, a distanza più consistevole. Quindi l'intento proprio della struttura coordinamento interprovinciale nasce quello di mettere insieme tutte le esperienze di un territorio molto lungo e quindi rivederle tutti quanti insieme e dare quindi una risposta, un giudizio, un'analisi che fosse molto più generale, più lungimirante da questo punto di vista, indipendentemente dal proprio territorio autoctono. Nasce a partire dal disseccamento degli alberi di ulivo, però chi è stato praticamente sin dagli albori, essendo stato chiamato anche complottista, perché siamo tutti complottisti, quando no poi vediamo quasi nel giusto, e poi i complottisti a guardare nel futuro sono stati loro le parti istituzionali e accademiche, parte dal contesto del disseccamento degli alberi ulivi, però chiaramente parliamo di un territorio molto particolare in cui non avevamo già visto, praticamente intuito, dei progetti molto importanti, perché poi questi progetti contemplavano la sostituzione del territorio dell'albero di ulivo, quindi l'albero di ulivo doveva sparire e dare adito praticamente ad altri progetti di continuare. Chiaramente si tratta di progetti, come dire, molto profittevoli, molto da business, che vanno a 360 gradi da progetti che rimangono agricoli con le culture intensive, ma anche dell'agrienergia, del turismo, dei pannelli solari, eccetera, eccetera. Tant'è vero che anche lo stesso nome, a tutela dei territori, è appunto come dire, una gestione a 360 gradi di quello che poi piomba in un territorio, massacrandolo poi essenzialmente per un discorso di interessi e di profitti. E non si può fare solo e soltanto un discorso, voglio dire, di ambiente, di ecologia astratta, ma c'è un discorso in cui, quando l'ambiente e l'ecologia poi è direttamente collegata con la gestione del territorio, col contesto del territorio, no? È chiaro che, voglio dire, non puoi non fare a meno di metterci un contesto sociale, culturale, politico, storico, e quindi nasce perfettamente da questa esigenza. Parliamo anche di, come dire, sotto certi aspetti, di due situazioni. Primo, tutto quello che è intorno a questo territorio, fra San Marzano, Maruzio, Sava, Manduria, aveva già espresso fin dal 2014 notevoli antagonismi, quindi stiamo parlando di più di 10 anni fa. Antagonismi che sicuramente si sono sviluppati e, come dire, non si sono mai racchiusi in se stessi. Poi chiaramente per tutti quanti noi c'è stato quel maledetto periodo covidiano, no? E nonostante che avevamo appena iniziato dei progetti molto, molto lungimiranti, che quindi, come è accaduto dappertutto, ha un po' frenato un po' tutto quanto, voglio dire, no? Però poi, passato tutto l'ambaradan, le cose un po' siamo riusciti a risvegliarle, no? E quindi a dare un po' di input maggiore a quelli che erano essenzialmente dei progetti che erano già in pentola, perché noi, proprio per dare continuità, non avevamo mai smesso praticamente di fare quel tipo di lavorio. Quindi è un progetto che, come dire, è stato accettato un po' da tutti. Chiaramente poi c'è chi si è allontanato, chi non partecipa, chi partecipa, come tutte le situazioni in genere. Siamo riusciti a dare un corpo, una struttura, voglio dire, a questo coordinamento. Abbiamo fatto anche delle iniziative pubbliche, delle proposte anche a delle amministrazioni comunali, tra l'altro, e fatto anche un paio di produzioni, un paio di libretti, di cui forse, diciamo, il più emblematico è quello del libretto che si intitola Il Sahara lento dell'ambiente svenduto, in cui già dal titolo, no, si evince praticamente quello che poi è il contenuto stesso del libretto, perché voglio dire, sostanzialmente dire Sahara lento si rimanda sia al Salento che al Sahara, che è un deserto. Come nasce questo libro? Nasce anche per un motivo molto specifico, perché anche all'interno di quella che è la componente antagonista, vissuta nell'agosto 2024 nel Festival delle Terre lì a Urbia, effettivamente ancora si notavano tutta una serie di punte di iceberg di contraddizioni, non soltanto esterne a quella che è la militanza, ma anche all'interno, perché sicuramente poi, parlando di agricoltura, di terre, anche all'interno dell'antagonismo non c'è quella, sempre quell'esperienza specifica, no? Quindi, come dire, legando tutto questo a quello che può essere una ignoranza cosciente o non cosciente della problematica, si evinceva praticamente che bisognava dare, no, alla situazione, alla tematica, dei contenuti molto precisi, sia da un punto di vista, come dire, proprio politico, ma anche da un punto di vista tecnico, voglio dire, perché sfuggivano soprattutto a chi è lontano dal Salento, di altre regioni, mi ricordo soprattutto i toscani, anche loro chiaramente, no, con le olive. Non riuscivano a capire bene qual era un po' il nesso con tutta una serie e quindi si era pensato, appunto, invece di fare un documentino piccolo, come dire, semplice, su quello che poteva essere una storia dell'antagonismo sulla tematica, invece di fare un lavoro molto più corposo, e quindi oltre a quel minimo di storiografia, metterci anche quello che era proprio il contesto sociale, politico, culturale del territorio, perché se non si parte da questo non si arriva da nessuna parte per capire qualsiasi situazione, qualsiasi tematica, e quindi arrivare anche ad addentrarsi su quello che era l'aspetto tecnico, non solo botanico ma anche agricolo, voglio dire, perché non tutti abbiamo esperienze di agricoltura. Magari tutti quanti dici: io voglio mangiare le cose dal gas, dal giardino clandestino o da Utopia, però poi se devi metterlo, dici, con una zappa da qualche parte, quasi tutti poi, insomma, sta zappa non la sanno manco sa, manco la forbice o non lo so, o un forno, per dire, no? Per cui scendere negli aspetti tecnici era doveroso per dare delle conoscenze proprio, no? E quindi di conoscenze di approfondimento per arricchire quello che poi è il sapere e la cultura di una mente, per dare anche alla fine poi, come dire, degli indirizzi proprio politici veri e propri. Innanzitutto ci tengo a precisare che, appunto, il nome del batterio fastidioso, ormai per scelta politica noi non lo menzioniamo, non lo più, in 100 pagine di libro non è mai menzionato, proprio per dire che non crediamo al 100%, anzi al 3000%, alla narrazione tossica istituzionale accademica, no? Quindi, da un punto di vista storico, stiamo parlando di un fenomeno che inizia grosso modo più di 20 anni fa, iniziano appunto a disseccare degli alberi, con un disseccamento che è un po' diverso rispetto a quello più o meno visto comunemente, no? Qualsiasi pianta, qualche ramo dissecca o meno, quindi compreso anche l'ulivo. Questi disseccamenti già dai contadini, come dire, venivano un po' riconosciuti come particolari, forse un po' diversi dai soliti disseccamenti. E quindi inizialmente c'è un discorso un po' di chiedersi perché, per come, che sta succedendo, quindi c'è un discorso generale così, senza, no, soffermarsi nel merito. E col passare degli anni questi disseccamenti chiaramente cominciano ad avere delle caratteristiche sempre più specifiche, e tanto è vero che da un punto di vista anche istituzionale, parliamo della, non soltanto per quanto riguarda le competenze dell'amministrazione regionale, ma anche di quelle accademiche, in modo particolare Servizio Fitosanitario Regionale e CNR, l'Università di Bari, c'è l'interessamento, appunto, di queste strutture, e inizialmente, dati ufficiali, voglio dire, formalmente si, come dire, si avvalora l'ipotesi che c'è un problema soprattutto di funghi in modo particolare, accoppiato a quello che poteva essere, come dire, un maltrattamento del terreno che è abbandonato, o all'uso incredibile negli ultimi decenni nel Salento e della chimica pesante, in modo particolare poi dei diserbanti, dei disinfettanti. Quindi questa è l'ipotesi anche ufficiale, diciamo, no? E gli anni cominciano a passare. Io partirei, perché è una data molto importante, il 2010 succede qualcosa nei pressi di Bari, a Valenzano, in un paese di Bari dove c'è praticamente lo IAM di Valenzano, IAM Stab, Istituto Agronomico Mediterraneo. Ce ne sono praticamente 4 in tutto l'arco mediterraneo. In Italia c'è, ed è praticamente a Valenzano, ce ne sono in Francia, uno in Spagna, uno in Grecia, okay? Anche se i paesi sono molto di più e coinvolgono anche i paesi africani, però di IAM praticamente ce ne sono solo 4, di cui uno in Italia. Chiaramente, se parliamo soprattutto di olivi, la Puglia, essendo la foresta il bosco degli olivi praticamente per eccellenza, no? Lì praticamente in questo workshop chiamato all'IAM di Valenzano arriva classicamente un certo californiano americano, si chiama Rodrigo Almeida, dove per la prima volta in questo workshop esce fuori il nome del batterio fastidioso. E dire: guardate che noi in California abbiamo avuto il problema del distaccamento, e qui forse è la stessa cosa, e statevi attenti. Insomma, comincia un po' il pericolo alle porte, quando nessuno aveva mai sentito parlare di sto batterio. Poi sto batterio poteva esserci, poteva non esserci, poteva pure esserci ai tempi dei Romani o dei Greci, ma nessuno ne ha mai saputo dell'esistenza. Nell'arco di 1 o 2 anni questi riescono un pochettino ad avere, come dire, no, un percorso molto veloce, fino ad arrivare al 2013. Il 2013 è l'anno in cui praticamente si decide un po' tutto, no? Dove parliamo anche del fine 2013, a ottobre, praticamente c'è un discorso di presa di posizione della stessa amministrazione regionale, in cui si dice praticamente che il pericolo del batterio ormai è una realtà, e che il settamento è questo, e che quindi bisogna praticamente fare di tutto per frenare questa avanzata epidemica di questo batterio. Che poi hanno fatto tutta una serie di consorterie baresi, in cui chiaramente nel progetto veniva coinvolta costantemente la stampa, non solo quella locale, anche quella nazionale, no? con i titoloni killer degli ulivi, eccetera eccetera, si arriva praticamente, ecco perché è importante citare anche dei dati per dare l'idea di come in un tempo estremamente breve e senza avere anche dei riscontri scientifici, e loro erano gli scienziati, lui no, chiaro, si dà già praticamente bella e pronta la pappa di chi è il killer, di chi è il responsabile, di che cosa fare, di che cosa non fare. Nel 2014 praticamente viene già creata praticamente la situazione di emergenza con un commissario straordinario. Io ci tengo a ricordare che, come tutte le situazioni di emergenza in qualsiasi campo, voglio dire, il pericolo di annientare tutti i diritti civili ed ambientali è veramente molto serio, perché poi attraverso il commissariamento si scavalcano tutti quelli che sono, no? Tutta una serie di normative e garanzie anche costituzionali da questo punto di vista, per cui non è manco, voglio dire, è più tutelata la stessa proprietà privata, perché il contadino proprietario di quel terreno viene completamente scavalcato, perché ti arriva praticamente il commissario e decide lui quello che deve fare della tua vita, del tuo terreno, eccetera, eccetera. Quindi in un tempo molto breve si arriva proprio ad un clima di emergenza. Come si arriva a questo? Questa è la cosa più importante forse da dire, perché in tutti quegli anni precedenti in cui come dire, c'era un certo rimbalzo di analisi, no? L'Italia, la Puglia, quindi anche l'Italia, cercavano di sfruttare questa situazione per trarne vantaggio da un punto di vista, diciamo, economico, no? E allora che succede? Rispetto ai disastri ambientali in cui anche la stessa comunità europea dà sovvenzionamenti, praticamente era già chiaro tutto che attraverso un'analisi di funghi, di chimica del territorio non si sarebbero avuti soldi, per cui bisognava inventarsi qualcosa che potesse essere da input, da lampadina per farsi arrivare i soldi. Tant'è vero che nella Commissione Agricoltura di allora europea c'erano due pugliesi, di cui uno barese e uno leccese, che fanno capire tranquillamente alle istituzioni ufficiali, accademiche pugliesi, che se loro non pescano in un altro campo, in Puglia non arriverebbero soldi. Qual è l'altro campo? Si chiama praticamente, ci sono delle liste numerate dell'EPPO, che è l'ente europea per la protezione delle piante, per la tutela e la protezione delle piante, in cui praticamente ci sono tutta una serie di microrganismi elencati, e diciamo quelli più severi, quelli già autoctoni, quelli che sono esterni, e quindi bisognava pescarne uno praticamente che non fosse presente in Europa, è arrivato in Europa, e che quindi bisogna isolarlo e bisogna praticamente tamponare affinché non si diffonda poi in tutto il territorio europeo. Questa si chiama lista A1 dell'EPPO. In questa lista 1 dell'EPPO rientra appunto il batterio fastidioso, e che quindi diventa un microorganismo da quarantena. Quindi se non ci fosse praticamente un microorganismo da quarantena, tutto il progetto del commissariamento della situazione d'emergenza non poteva esistere. Quindi è uscito fuori essenzialmente sto batterio, perché attraverso sto batterio potevano aprirsi tutti quei fiumi di soldi che sono arrivati in Puglia, non ai pugliesi o ai contadini pugliesi, sono arrivati alle istituzioni pugliesi, e che quindi poi, come dire, per fare in modo che continuassero ad arrivare fiumi di denaro, chiaramente poi l'Europa imponeva poi certe regolamentazioni, no? Da premettere che diciamo sto rapporto è stato sempre contemplato come una specie di dice, la colpa è dell'Europa. No, la colpa non è dell'Europa, perché il curriculum istituzionale è questo: la regione dice che cos'è e che cosa non è e che cosa bisogna fare, lo comunica al governo italiano, al Ministero dell'Agricoltura. Allora, lo Stato italiano lo comunica alla Commissione europea. Allora, quindi tutto parte da un punto di vista territoriale, la Commissione europea valuta tutta la documentazione, nel momento in cui l'accetta c'è il ritorno praticamente. Quindi tutto parte dalla Regione Puglia, quindi non c'è un'invenzione europea. È chiaro che poi le regolamentazioni europee ci sono già, indipendentemente da un discorso del seccamento degli ulivi, sono state fatte da un punto di vista generale, e quindi tu o ottemperi praticamente poi a questo tipo di regolamentazione, o altrimenti non solo non ricevi i soldi, ma ci sono le sanzioni pure, ci sono anche le sanzioni. E quindi che significava? Significava che fare tutto in modo tale che fosse frenata l'avanzata di sto batterio faceva arrivare il 50% dei soldi. Arrivare ad abbattere anche gli alberi significa praticamente farsi arrivare il 100% dei soldi. Tutto questo praticamente con tutta una serie di contraddizioni anche all'interno, diciamo, pugliese e italiano, lo starebbero a provare tutta una serie di documentazioni anche ministeriali, voglio dire, in contraddizione con tutto quello che poi è anche un minimo di storia e di letteratura scientifica mondiale, perché questi sono fenomeni che sono già avvenuti da altre parti, non parlo vivo per altre piante, e soprattutto quando si parla di Sud America e di Nord America, ma anche Thailandia, Indonesia. Per cui questi meccanismi di espianto degli alberi sono stati già sperimentati praticamente in altri posti molto tempo fa, e si è visto che praticamente non hanno nessun tipo di vantaggio, nessuna conclusione, anzi addirittura hanno peggiorato anche la stessa situazione. In questa contraddizione, e anche a tutt'oggi, perché l'EFSA, no, che poi l'ente europeo per la sicurezza alimentare, voglio dire, molto legato anche alla FAO, eccetera, eccetera, ha sempre detto allo Stato italiano, per la regione Puglia, statevi attenti, perché se nel vostro protocollo emergenziale esiste tutto questo agguerrimento verso questo batterio, che non è solo verso il batterio, perché poi si sono inventati anche il vettore del batterio, secondo loro è praticamente un insetto, è la cosiddetta cicalina, è la spuracchina, quella che fa la bava bianca, che è un insetto proprio, è universale, è frequentissimo, voglio dire, ma sta in tutto il mondo vegetale, e quindi per combattere questo insetto non soltanto gli antiparassitari, quindi parliamo di chimica, ma anche il disseccamento dell'erba, perché poi l'erba è dove essenzialmente lei si posa per fare le uova, questa bava, no? Prima di andare sulle piante per andare a infettare qualsiasi cosa, ma questa è l'altra invenzione per andare praticamente ad aprire un percorso all'agrochimica molto pesante, che già era stata individuata come una delle colpevole, no, del disseccamento degli ulivi, e quindi invece di fare un passo indietro si fanno tre passi in avanti. Quindi la stessa EFSA aveva avvisato, guardate che andando a intensificare ancora di più i prodotti chimici in agricoltura e nei territori, si peggiora poi non solo la qualità degli alimenti, ma anche si amplifica il discorso della contaminazione chimica negli alimenti, e quindi il discorso anche del benessere, della salute, di quello e di quell'altro. Tutto questo discorso è stato completamente bypassato. Addirittura nel 2015 sono pure iniziati in questi territori delle erorazioni aeree, no? E quindi piovevano disturbanti e disinfettanti non soltanto sugli alberi di ulivo, ma su tutto il territorio, quindi compresi anche boschi, macchie mediterranee, muretti, casette. Cioè, c'è stato un macello proprio di quelli incredibile, mai e poi mai che uno potesse immaginare, voglio dire, no? Quindi questo qui è stato il percorso. Chiaramente poi con la situazione emergenziale, con il discorso del commissariamento, e quindi anche con l'emissione di truppe vere e proprie, no? Sotto gli ordini del commissario, le cui principali come truppe erano quelle dell'ARIF. L'ARIF è un'agenzia che doveva occuparsi del benessere delle aree irrigue e forestali, nata con, io lo chiamo Svendola, e continuo a dire Svendola, voglio dire. In realtà sono stati gli strumenti principali, no? Poi ad opera del commissario, ma non solo loro, ma anche i carabinieri forestali, anche la polizia urbana, quella di praticamente mettere in atto tutto quello che poi è il protocollo repressivo praticamente a danno del territorio e anche degli stessi proprietari. We'll be right back. Quindi si è detto che l'emergenza viene dichiarata nell'ottobre 2013. No, sono le delibere regionali che vanno a fine 2013. L'emergenza viene dichiarata nel 2014. E entrano in azione subito. Entro in azione subito nel 2014. Tanto è vero che anche se inizialmente pure per loro il progetto, il protocollo stenta ad andare nella loro assolutezza, voglio dire, però avevano già cominciato a capire una cosa molto importante, che era quello della blindatura. Cioè o loro riuscivano a blindare praticamente tutto l'ambaradan, o altrimenti chiunque avrebbe scoperto qualsiasi cosa. Blindatura che significa questo? Significa che tutti gli aspetti scientifici, economici, geografici, proprio geografici, no? Se li studiano per bene, e vengono esclusi tutti gli altri personaggi che stanno all'esterno, cioè del tipo. Soltanto la regione Puglia può dire quello che si può fare e quello che non si può fare. Solo il commissario straordinario può decidere, solo l'ARIF può intervenire. Le analisi di laboratorio sulle piante le può fare soltanto un laboratorio, che è l'istituto, anche attualmente l'istituto agronomico Basile Caramia di Locorotondo, tra parentesi Locorotondo è un paese nella provincia di Bari, che era pure lontano rispetto all'iniziale di settamento, e che sono esclusi dallo studio tutte le università che non siano a Bari. Quindi Bari concentra solo su Bari, sia inteso come università, come CNR, come servizio fitosanitario, tutto quello che è l'aspetto decisionale di studio. Vengono escluse tutte le altre università che si erano prestate un aiuto, in modo particolare quelle toscane, per esempio, no? Quelle laziali. Comuni stessi, le amministrazioni comunali devono sottendere a quello che è il protocollo, praticamente sto coso si chiama Silletti, che era un generale dei carabinieri forestali, c'è un protocollo praticamente che dovevano sottendere anche tutte le amministrazioni comunali, e tra cui anche i disturbamenti nelle aree urbane, insomma, no? Nel protocollo era sotteso tutto quello che dovevano fare anche le stesse amministrazioni comunali, per tutte le aree praticamente urbane, quindi dovevano buttare l'erbicida, il disseccamento, e quindi anche il discorso dei territori, cioè è ancora tutt'oggi è rimasto così, entro aprile-maggio se tu non fai scomparire l'erba dai terreni sei multato, se tu non aravi entro un certo, perché poi sti carabinieri forestali sono diventati i cultori della cultura agricola, come se loro fossero i sapienti di come si coltiva la terra, e quindi devono dire pure a te che cosa devi fare e che cosa non devi fare. Voglio dire, tutto questo. Quindi un protocollo che deve seguire l'amministrazione comunale e il singolo cittadino, che se nel suo giardinetto di fronte a casa c'è l'erba che loro giudicano troppo alta, viene multata con delle multe anche salate. E sono state erogate tante, quante persone sono state colpite da multe? Parecchie, e anche a tutt'oggi sono ancora colpite da multe. Diciamo che Silletti non c'è più, il protocollo è stato un po' modificato perché chiaramente loro non potevano, però grosso modo la situazione d'emergenza è rimasta quella che è. Tanto è vero, io faccio un salto di palo in frasca, no? Ma così si comprende meglio la situazione. Da un punto di vista delle nostre proposte politiche come coordinamento interprovinciale, la cosa più importante per noi è che proprio sia invalidata, visto anche, come dire, la lungaggine di tempo che è intercorsa, non solo, ma visti anche i risultati completamente scadenti, perché non si è fermato nessun disseccamento, voglio dire, no? Si sono soltanto espiantati degli alberi, che finalmente sia tolta, no? Questa situazione di emergenza, sia tolta la lista dell'Eppo con la quarantena, e quindi in questo modo viene bloccato praticamente quello che è tutto il processo di distruzione e di spianto degli alberi, e soprattutto poi magari ci scendiamo anche nel merito, perché poi nel frattempo nel 2019 è stata concepita una legge veramente dal decreto sicurezza, voglio dire, che è la 44, no? In cui già con una semplice comunicazione un singolo cittadino o un contadino fa una comunicazione alla regione e può espiantare tutti gli alberi che vuole, per cui l'albero di ulivo a tutt'oggi aveva tantissime tutele prime, dove veramente se tu ti permettevi di andare a espiantare un albero di ulivo c'era una sanzione penale per te, ma invece sull'albero di ulivo si può fare qualsiasi cosa, compresa la produzione di energia green, facendolo diventare praticamente cippato. È una cosa importante questo del clima dell'emergenza, perché se noi riusciamo a togliere questo significa che le cose andranno avanti per tantissimo tempo e saranno legate solo e soltanto alla sensibilità delle singole soggettività. Ma la sensibilità delle singole soggettività è forse la cosa più importante, perché la pretesa appunto del libro del Salavento è proprio questa, è che prima di parlare di tutto il fenomeno è la contestualizzazione stessa del fenomeno. Se noi non partiamo dal contesto, no, dove poi prende origine, allora come tutte le cose non andiamo da nessuna parte. Perché praticamente c'è qualcosa che accade prima del disseccamento, e quindi prima degli anni dell'inizio del 2000, è praticamente l'abbandono delle terre, perché per tutta una serie di motivazioni, ma soprattutto per tutta una serie di trasformazioni, diciamo, sociali, economici, occupazionali, no? Mentre nella storia della Puglia sicuramente l'agricoltura di tipo familiare era l'economia più frequente, chiaramente con il passo della industrializzazione dei territori, con la colonizzazione dei terreni, tutto questo comincia a trasformarsi e quindi a cambiare proprio inizialmente anche come contesti sociali. Per cui che cosa succede è che oggigiorno contadini ne esistono veramente pochissimi, no? Da un punto di vista occupazionale, mentre prima l'agricoltura riusciva, come dire, ad assorbire il 70-80% della popolazione, adesso ne assorbe veramente una fetta molto banale. Per cui tutta questa gente che non è più contadina, che soprattutto magari è pure laureata, ha pure una professione, che fa? Prima è emigrata per andare a studiare, poi ritorna, qui c'è la terra bruciata perché non c'è più nessuna operatività da un punto di vista occupazionale, quindi che fa? Se non deve ritornare da capo lì dove andava a studiare. E quindi c'è anche uno svuotamento di popolazione stessa, tanto è vero che per esempio Taranto città, che è la seconda città più importante della Puglia da un punto di vista della popolazione, si sta letteralmente sicurando. Per cui tutto quello che era un territorio molto coltivato dai nostri padri, dai nostri nonni, adesso completamente parcellizzato, completamente ereditato dai nipoti, dai figli che non fanno più contadini, ma che magari stanno a Milano, stanno a Roma, stanno a Verona, stanno non lo so dove, per loro quel pezzettino di terra è diventato anche un peso che se dovessero eliminarlo sarebbe più vantaggioso per loro economicamente, per cui cambiando tutto il contesto proprio culturale, sociale ed economico, chiaramente tutto il territorio inteso come ambiente viene completamente trasformato come al solito a volontà dell'uomo, no? da un punto di vista antropico, con tutte le conseguenze poi possibili, immaginabili, vuoi da un punto di vista della trasformazione di un'economia più tipicamente agricola, familiare, a un'economia più industriale da un punto di vista agricolo, quindi chiaramente l'industria. Tutto questo sottende anche un'altra trasformazione che è molto pesante, cioè noi dal post seconda guerra mondiale abbiamo assistito praticamente, come dire, a una suddivisione di quello che era il latifondo classico, no? Anche in Italia, anche nel sud dell'Italia, per cui sono state date, come dire, le terre ai contadini, pezzettini, un ettaro, tre ettari, però c'è stato uno spezzettamento della difonda che comunque è rimasto sempre molto, molto potente, però voglio dire è stato spezzettato. Oggigiorno si assiste praticamente alla, come dire, al modello inverso, no? Ci sta praticamente tutto quello spezzettamento si sta riconvertendo nella creazione del grosso latifondo, perché se parliamo di imprenditoria agricola, di culture intensive, il latifondo diventa lo strumento principale per andare a gestire quel tipo di estrazione delle terre, che non è più ormai da un punto di vista dei prodotti agricoli, alimentari, di qualità, ma è un modo come un altro per far soldi, per far profitti, quindi poco importa se i profitti li fai dall'acciaio o dal grano o dalle olive, no? Quindi l'accentramento delle terre è un processo in atto molto molto molto importante, e quindi l'esclusione di tutta quella che può essere la singola soggettività dei vari contadini sta giocando un ruolo molto importante anche da un punto di vista dell'antagonismo verso questi processi. Quindi questo è il contesto in cui viene calato praticamente il tutto, perché abbandono delle terre significa che le terre non vengono più lavorate, gli alberi non vengono più potati, non vengono più raccolte le olive, quindi c'è l'abbandono anche della pianta. Chiaramente con l'abbandono della pianta ci sono piante che riescono magari a stare pure meglio, vuol dire, non se noi umani non ci mettiamo mani, però in molte situazioni possono pregiudicare tutta una serie di avvenimenti avversi e quindi condizionare lo stesso sviluppo e la stessa permanenza nel mondo vegetale. Allora, se non si parte da questo presupposto non si arriva da nessuna parte. E tutto il resto chiaramente va da sé che poi diventa una conseguenza, no? Come dire, semplice, complessa, lampante, ma con molti punti oscuri, in cui vuol dire assolutamente nessuno sicuramente c'ha la verità in tasca su questa faccenda, nessuno può dire che io so che cosa è e che cosa non è, io ho il prodotto dal dettaglio che completamente chiamo nulla a sto processo. E tanto è vero, voglio dire, che oltre alla critica anche in meriti tecnici professionali praticamente di quella che è la posizione ufficiale rispetto poi alla, come dire, alla criminalizzazione di sto batterio fastidioso, che è quella soprattutto dei campionamenti, perché sono stati fatti miliardi e miliardi di campionamenti, c'è stato un affare già gigantesco sui campionamenti e inizialmente anche fatti in un modo di scientifico, proprio non c'erano niente, tutti i rametti presi alla rinfusa, metti uno con la stessa forbice, tagli qua, tagli là, stiamo parlando secondo loro di malattie infettive, quindi immagina con un bisturi io ti taglio la pancia a te, taglio la pancia a quell'altra, a quell'altro, se tu hai le epatite te la sto portando a te, a quell'altro, per cui poi un po' l'hanno capito che dovevano fare un po' diversamente anche dal punto di vista della visione, però sta di fatto che nonostante loro hanno dichiarato già guerra a sto batterio prima che iniziassero i campionamenti, la racconta già lungo, diciamo, ma come fate a sapere che è sto batterio? Perché è venuto l'americano lì della California e l'ha detto che è questo, no? Ma poi quando hanno cominciato i campionamenti, ne parliamo diciamo tra il 2014 e il 2015, va bene? E dai campionamenti non è che uscivano chissà quanti batteri fastidiosi, uscivano praticamente positivi sì e no il 2-3% dei campionamenti, quindi significa che su 100 piante, due piante avevano la positività a sto batterio, 98 non ce l'avevano. E se noi immaginiamo, e si sono fatte anche le quattro ipotesi principali, no? Di negatività e positività di un albero completamente secco, quindi sono due, come dire, due possibilità, negatività e positività di un albero completamente verde, quindi sono altre due possibilità. Come noi le andiamo ad analizzare tutte e quattro, ma forse la più incredibile è quella dell'albero secco, no? Se tu su 100 alberi secchi, completamente secchi, su 2 hai trovato la presenza del batterio e sugli altri 98 non l'hai trovata, mi devi dire perché sono seccati questi alberi? Non l'hanno mai detto, non hanno mai voluto rispondere a questo. Quindi questa è una delle prove più micidiali praticamente, no? che si possano avere, calcolando ancora un'altra cosa, scendendo sempre, scavando anche in aspetti diciamo tecnici professionali, le due metodiche usate dal mondo accademico barese sono state uno il test ELISA e l'altro il test della PCR. Entrambi i test sono, indipendentemente che possono dare falsi negativi e falsi positivi come tutti i test mondiali che esistono, ma riescono praticamente a captare non soltanto la presenza del batterio vivo, ma anche del batterio morto o di parti del batterio sgretolate. Quindi se noi immaginiamo l'albero secco, cioè se è seccato l'albero è morto anche il batterio, no, il test rileverebbe la presenza del batterio. Ma anche dice il batterio si è completamente sgretolato, se ne andrà. No, in questi test andrebbero praticamente a svelare anche quella presenza. Quindi se non c'è assolutamente la presenza, nessuno ha mai detto perché seccano queste piante. Tanto è vero che hanno aggiustato il tiro, perché a loro interessava essenzialmente sradicare gli alberi, quanti più alberi possibile, quanto più territori uscivano senza alberi di olivo era l'unico vincolo per quei territori, quindi svincolavano tutti quei terreni, no, da tutti i progetti che potevano essere in futuro. Si sono inventati, inizialmente erano 100 metri, adesso sono 50 metri, ma contenuto il discorso non cambia, che nel momento in cui veniva trovato un albero positivo a 100 metri da questa pianta dovevano essere spiantati tutti gli altri alberi, indipendentemente se positivi o negativi, non lo so la logica scientifica che posso tendere a tutto questo, no? Noi abbiamo cercato anche di fare delle critiche anche in termini scientifici, come dicono, soprattutto se tu mi ritrovi una pianta verde che è positiva al batterio e sta verde e produce ancora olive, invece di tenertela buona buona, dici, perché magari, che ne so, se è colpa del batterio, quella si è immunizzata al batterio e quindi riesce a contrastare biologicamente, naturalmente, questo batterio, invece di prenderla in considerazione e conservarla, tu devi tagliare, quindi non te le stai fottendo niente al batterio. Come dire, da questi semplici passaggi praticamente si evince che l'unica destinazione d'uso era quello di abbattere le piante di olivo, poco importa, era la pianta la fastidiosa, non il batterio.